In questi ultimi anni abbiamo notato un calo nelle vendite dei navigatori satellitari intorno al 10% grosso modo. Flessione dovuta essenzialmente al calo sui navigatori di fascia bassa. I navigatori base che oggi ormai sono integrati negli smartphone o nei palmari. Oggi invece tengono bene il mercato i navigatori di fascia già medio-alta, navigatori che forniscono poi dei servizi in più al cliente. Il meteo, Google, il traffico in tempo reale, questo sicuramente influisce sulla scelta del prodotto. Invece lo schermo, quanto può influire? Tanto, noi vendiamo soprattutto prodotti da 4,3 in su, quindi 4,3 e 5 pollici. Ti dicono a volte di preferire l'applicazione per smartphone piuttosto che l'acquisto del navigatore satellitare? Non proprio, nel senso che te lo possono chiedere al momento dell'approccio, poi in realtà si rendono conto che comunque un display su smartphone non potrà mai essere un 4,3 o un 5 pollici, quindi spesso si dirottano proprio sui navigatori. Chi acquista uno smartphone per scaricare l'applicazione GPS acquista anche un supporto per l'automobile? Sì, spesso sì, il supporto, il cavo macchina, sì, comunque si forniscono di tutti gli accessori che poi lo rendono utilizzabile in auto. Qualche prezzo? Un navigatore satellitare e anche un'applicazione GPS con supporto. Ci sono navigatori che partono tranquillamente da 139 euro con già un buon display e già caratteristiche interessanti. Smartphone con navigatore partiamo da 129 euro e ha già all'interno l'applicazione scaricata. Invece un supporto per smartphone quanto può costare? 9,90 euro più o meno. Per quanto riguarda i tablet, i navigatori sono richiesti anche per questi prodotti? Sì, quando vendiamo un tablet comunque facciamo presente che c'è il GPS e loro comunque hanno una visuale senz'altro diversa. In realtà è un po' scomodo poterlo consultare. Ci sono quei supportini adesivi da mettere sul parabrezza in plastica, però capisci che con le temperature caldo-freddo ci può stare che si stacchi il biadesivo, quindi non è proprio così affidabile. I primi navigatori andavano aggiornati molto spesso. Adesso com'è la manutenzione di un navigatore satellitare? Adesso è tutto più semplice. In realtà le case più importanti il primo aggiornamento te lo danno gratuito. Successivamente va aggiornato, ma sempre tramite il sito della casa madre, quindi col cavetto che già ti forniscono ti fai un aggiornamento, ma è semplicissimo.